Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Piede sinistro, a piede libero, piede di piombo, sul piede di guerra, piede in due scarpe, in punta di piedi, piedi in testa, pestare i piedi. Adesso tocca a voi, buongiorno da Nicoletta, provate a formulare un piccolo testo di senso compiuto che contenga quanti più modi di dire possibili sui piedi. 800240024, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Lavoriamo sui piedi per allenare il cervello. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei Nicoletta e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io mi sono misurata, intanto che sentivo il gastronauta ho provato a fare un piccolo testo di senso compiuto con i modi di dire sui piedi, è l'esercizio che suggeriamo oggi ai nostri ascoltatori. Professor Iannoccari, io ho scritto: Mario si era alzato col piede sinistro, era arrabbiato nero e si comportava come se pensasse che tutti volessero mettergli i piedi in testa. Anche il suo collega, guardandolo in faccia, capì che Mario era sul piede di guerra e decise di non fargli troppe domande e di procedere coi piedi di piombo. Questo è un piccolo breve testo, ma naturalmente aspettiamo i nostri ascoltatori. Possono scriverci via Facebook oppure mandarci un messaggio o chiamarci all'800240024. Perché, professore? Perché noi diciamo sempre fatto con i piedi di una cosa fatta male, senza usare la testa, ma noi oggi lavoreremo proprio con i piedi per usare bene la testa. Sì, l'importante è cadere sempre in piedi, qualunque esercizio si faccia. Bravo, e questo è un altro modo di dire che possiamo aggiungere. Beh, direi che l'esercizio che ha proposto agli ascoltatori è un bell'impegno per loro. Infatti sarà necessario rovistare nella memoria per ritrovare tutti i modi di dire che hanno a che fare col piede, soprattutto perché si tratta di detti metaforici e quindi richiedono l'attivazione di diverse aree del cervello che sono posizionate in diversi posti della corteccia cerebrale. Mentre per esempio la parola piede è direttamente collegata con gamba, scarpa, quindi questi termini sono molto vicini tra loro e si possono prendere facilmente, mettere insieme la frase tenere il piede in due scarpe invece richiede un contributo delle aree associative che deve fare da collegamento tra aree del cervello che sono posizionate sia nell'emisfero destro che nell'emisfero sinistro. E quindi cosa serve? Perché dobbiamo impegnarci, oltre alla possibilità di avere uno dei libri di Essere e Benessere, ma che cosa ci guadagniamo ad allenarci con i modi di dire, in questo caso sul piede? Fare una bella storia come quella che ha proposto lei prima serve per velocizzare il modo in cui riprendiamo i concetti dalla memoria e questo ci consente di essere più precisi ed efficienti quando facciamo ad esempio un ragionamento, aiutandoci così ad articolare con sicurezza le idee e a non perdere soprattutto il filo del discorso. Quindi se perdete il filo del discorso facciamo questo esercizio, questo è l'invito del professor Iannoccari, però possiamo farlo anche con altre parti del corpo. Noi oggi lavoriamo sui piedi e c'è una ragione ben precisa. Possiamo farlo con qualunque parola. Una volta centrato il modo di fare il compito, possiamo utilizzare ad esempio le gambe, ad esempio le mani, la testa, ecco. Possiamo poi sbizzarrirci noi e inventare nuove parole per fare questo esercizio. Come possiamo comprendere, no, i piedi non sono poi così lontani dalla testa, Nicoletta. È tanto che cammini e non senti male ai piedi, ti seguo già da un po'. Ecco un'altra prova di quanti piedi e cervello siano legati tra di loro, il mal di piedi che batte in testa. Questo non è un modo di dire, chi l'ha provato chiami subito al nostro numero verde 800240024 e saluto il dottor Leonardo Maradei, responsabile della sezione mini invasiva ortopedica dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno dottor Maradei, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Certo, i nostri piedi bisogna pensare che sono una straordinaria opera ingegneristica della natura, infatti è l'organo che ci permette la stazione retta, che ci permette il movimento di correre, saltare, giocare, di esprimerci in vari modi ed è un organo molto complesso perché comunque è in grado di adattarsi ai vari terreni, riesce ad analizzare le varie asperità del terreno e predisporre adattamenti di tutto il nostro corpo, cioè permette di evitare distorsioni, compressioni delle varie articolazioni. Quindi per fare tutto questo ha bisogno di una quantità di recettori nervosi molto grande, infatti nel piede ce ne sono più di 7000 che sono collegati attraverso la spina dorsale ed il cervello a tutto il nostro corpo, per cui quello che si diceva prima, il piede, il dolore del piede dal cervello, proprio perché ha tantissimi collegamenti nervosi. È proprio così. Ritorno dal professore Iannoccari per tornare ai piedi. Possiamo usarli per fare una specie di test ai nostri neuroni, diciamo così, dato che è molto stretta la connessione tra piedi e cervello, allora alleniamoli. Ma infatti stare in piedi non è solo una questione puramente meccanica, coinvolge soprattutto la testa. Infatti quando stiamo in piedi richiediamo l'impegno di numerose fasce muscolari che vengono controllate da che? Dalle aree sensomotorie e motorie del cervello che si trovano nella parte alta del lobo frontale sulla testa per intenderci, ma anche le strutture sottocorticali, quelle posizionate al centro come i gangli della base che ci consentono di ordinarci in modo automatico. Poi quando facciamo movimenti più raffinati, per esempio quello di un tuffatore, oppure quando gestiamo i pedali dell'automobile, entra in gioco il cervelletto che ci consente di fare degli schemi motori molto complessi senza neanche pensarci. Poi stare in equilibrio richiede anche la concentrazione. Sì, professor Iannoccari, io la sento sempre peggio e quindi dato che la linea è disturbata, noi lasciamoci con questa indicazione e poi proveremo a richiamarla nel corso della trasmissione. Abbiamo lavorato sui modi di dire sul piede per allenare alcune abilità cognitive come lei ci ha anticipato e quindi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde o a scriverci, ma lei ci suggeriva anche un altro esercizio che era proprio basato sull'equilibrio, quindi stare in equilibrio su un piede solo può essere molto attivante. Il professor Iannoccari, speriamo di rincontrarlo nel corso della trasmissione. Intanto 800 24 00 24 per cadere in piedi. Professor Iannoccari, ci sentiamo tra poco, spero. Ora dobbiamo procedere alla prova. Ma certo, Anastasia, mia cara. Ecco qua, lo dicevo io che era la mia. È proprio la mia misura. Io l'ho detto subito che era la mia. Appena l'ho vista ho detto... Oh, beh, ecco, forse ho il piede un po' gonfio, sapete com'è, dopo aver ballato tutta la notte. Basterebbe un po' di buona volontà. Mi è sempre entrata così bene. Dottor Maradei, a proposito di dolore, la famosa scarpetta di Cenerentola, se si lamenta il piede qualcosa vorrà dirci e non sempre il problema si risolve togliendo la scarpa e non è sempre colpa della scarpa stretta. No, questo è vero. Il dolore ai piedi è una patologia che i pazienti sentono molto spesso superati i 60 anni, ma spesso i dolori sono anche in pacienti giovani, 20-30 anni. Il dolore ai piedi spesso viene abbinato con l'invecchiamento, in realtà non è vero, perché comunque sono diverse le patologie che possono dare dolore al piede, vedi il diabete, vedi l'obesità. C'è da dire che però le scarpe sono comunque una delle cause principali di questi dolori ai piedi, lo dimostra il fatto che questo problema del dolore ai piedi è sconosciuto tra le popolazioni che camminano a piedi scalzi, con il piede libero, mentre invece è sentito dalle popolazioni civilizzate. La scarpa che è nata per proteggere i nostri piedi si può trasformare in uno strumento di vera e propria tortura per il piede, punta stretta, plantari, tacchi, fondo rigido, calzature che costringono la caviglia e che non danno ai piedi la possibilità di usare tutti questi recettori di cui noi abbiamo parlato. Quindi un buon consiglio è camminare a piedi nudi almeno in casa? Dottor Maradei. Il problema è che il camminare scalzi andrebbe bene in spiaggia, sul prato, in casa so, purtroppo in c'è attesa, il pavimento che è rigido, per cui non riusciamo a muovere il piede in modo corretto, esatto. È per riattivare tutto quello che durante invece la giornata costretti nelle scarpe abbiamo fermato e chiuso. Poi dottor Maradei, non tutti i piedi sono uguali, immagino che sia anche un problema di forma, di conformazione del piede. Certo. Il piede è caratterizzato da questo arco plantare che è fondamentale per ammortizzare tutto il peso del corpo. In base alla curvatura di questo arco plantare noi avremo dei piedi piatti che saranno più predisposti a delle tendiniti, proprio perché c'è questa distensione della fascia plantare e dei piedi cavi, in cui la curvatura è maggiore, in cui il piede sovraccaricherà molto la parte anteriore, dando delle metatarsalgie e dando anche dei dolori di fascite plantare e spina calcaneare. Quindi piede piatto che dà più tendiniti e piede cavo che dà più sovraccarico anteriore e posteriore del piede. E poi il piede viene anche differenziato in base alla sua forma, il famoso piede egizio, greco oppure romano. Eh sì, quella è la forma dei piedi, ci piace molto individuarla, perché ogni piede ha i suoi punti di forza e le sue fragilità. E poi a volte, a proposito di dolore, a volte è localizzato una stilettata proprio in mezzo alle dita. Certo, questo è un dolore di natura, anche questo di natura neurologica, è un'infiammazione di un ramo nervoso interdigitale che può creare questi cosiddetti neuromi, chiamati neuromi di Morton dal chirurgo che li ha scoperti, che sono delle cisti. Che sono delle cisti su questo nervo molto dolorose, cioè una patologia assolutamente benigna, niente di grave, ma molto dolorosa per il paziente. Abbiamo Enrica che ci chiama da Bergamo, 800 24 00 24. Vediamo se vuole allenarsi coi modi di dire sul piede oppure vuole raccontarci qualcosa dei suoi piedi. Enrica, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a tutti e complimenti a lei Nicoletta per le sue bellissime trasmissioni. Grazie Enrica. Allora, il mio problema era questo, io avevo un quesito da porre. Quando esercitando lo yoga o quando mi metto anche a casa, magari su un tappeto con un bambino seduta sui talloni, il mio peso seduto sui talloni, sotto l'incavo del piede sinistro mi prende un crampo molto forte e io devo assolutamente cambiare posizione. Questo mi succede da un annetto circa, volevo capire da che cosa può dipendere questa cosa. Dottor Maradei, meno male che c'è Essere Benessere. Allora, dobbiamo dare un'indicazione ad Enrica, che ha una specie di crampo. Molto probabilmente è uno stiramento sulla fascia plantare. Quella posizione stira moltissimo la fascia plantare e quindi se non è ben allenata come fascia plantare, ben distesa, può dare questi crampi. Bisogna poi vedere qual è la conformazione del piede della signora. Abbiamo parlato di piede piatto e piede cavo e molto probabilmente la signora ha un piede cavo, per cui sovraccaricando sulla fascia plantare questa viene stirata e dà dei crampi a tutta la muscolatura poi della pianta del piede. Abbiamo Rita che ci chiama dalla provincia di Rovigo e apriamo con due ascoltatrici oggi, sono molto contenta. Rita, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, complimenti per tutto, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Rita, mi dica. Volevo chiedere se qualcuno mi può aiutare, visto che tanto che io uso i piedi tutti i giorni perché faccio delle pulizie in giro, quindi uso sempre scarpe da tennis a pianta larga perché ho dei piedi orrendi. Ma perché diciamo sempre che i piedi sono orrendi? Dottor Maradei, lei quando guarda i piedi dei suoi pazienti, ha mai trovato qualcuno che le dicesse guardi è un po' malconcio, guardi che bel piede? Sui piedi abbiamo tutti dei complessi. Rita, scusi, l'ho interrotta. Ma io le dita, il sinistro con l'indice in alto e il destro con l'indice in basso tipo martello, e quindi volevo chiedere, siccome che ho la pianta che mi si fa un durone sotto da atroce, mi si tengono delle fitte atroci, volevo sapere se era colpa della conformità artrosica che ho io in tutto il corpo o se si può fare qualcosa per migliorarmi perché sono distrutta. Allora, dottor Maradei, si può fare qualcosa? Sì, certo, sì, che sicuramente. Sì. La signora ha sicuramente un sovraccarico del secondo e del terzo metatarso che l'ha portato poi il dito a martello. Se il dito a martello non è ancora strutturato, vale a dire se è ancora riducibile, se si riesce a raddrizzare, un plantare la può aiutare sicuramente. Un piantare fatto su misura dopo un esame del passo preciso può distendere questo dito. Se ormai è strutturato, può correggerlo soltanto chirurgicamente. E lei ha sottolineato su misura. Sì. Ecco, questo è importante, è importantissimo, perché se dobbiamo mettere qualcosa perché il nostro piede stia meglio, facciamoglielo su misura, se no si rischia di creare magari un ulteriore danno. Dottore? Certo, ogni piede è diverso dall'altro, per cui un plantare standard non può funzionare. Allora, ricapitolando, le parole chiave che ci ha suggerito il dottor Maradei sono forma, appoggio e mi sembra anche che possiamo aggiungere attività, nel senso, che cosa fate con i vostri piedi? Le nostre amiche ci hanno raccontato, li uso molto, la prima ascoltatrice faceva yoga, la seconda fa le pulizie, usa delle scarpe con la pianta molto larga, i piedi li usiamo tutti, ma magari li usiamo anche, li stimoliamo con l'attività sportiva, penso a chi corre, a chi fa il a chi cammina, a chi gioca a tennis o a calcetto. 800 24 00 24, forma appoggio e attività. Per la forma è semplice, dottor Maradei, abbiamo anticipato e ne abbiamo parlato tante volte, egizio, romano, greco, tre forme diverse con tre punti di forza e di debolezza differenti. Dottore, ricordiamo ancora l'egizio, il romano e il greco, che a noi piace comunque allora, classificare i nostri piedoni. Il piede egizio ha l'alluce più lungo del secondo dito, viceversa del piede greco, che ha il secondo dito più lungo dell'alluce e quindi ha più facilmente un sovraccarico metatarsale. Il piede romano invece sia l'alluce che il secondo dito della stessa lunghezza. Un po' più quadratino, un diciamo. Un po' più quadrato, ecco. Assolutamente. L'appoggio è un problema un pochino più delicato, ma un'idea ce la danno anche le nostre scarpe. In linea con noi abbiamo il dottor Gianluca Melegatti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Bentornato, medico. Grazie. Sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Dottor Melegatti, è vero, le scarpe parlano? Le scarpe parlano, assolutamente, sono un attrezzo straordinariamente importante di cui dobbiamo tener conto e che dobbiamo trattare bene. Le scarpe parlano e ci danno dei segni precisi, ci danno dei segni. L'usura della scarpa è molto indicativa della forma del piede e dell'utilizzo che una persona che fa sport fa del proprio piede. Quindi bisogna essere molto accurati nella scelta della scarpa. E poi guardare dove si consuma. Naturalmente, se si consuma all'esterno, se si consuma in centro o all'interno, se si consuma all'esterno è probabile che si sia di fronte a un piede supinato, vale a dire che con un appoggio prevalentemente esterno, e così se l'appoggio è prevalentemente interno avremo un piede iperpronato, vale a dire con una eccessiva tendenza a cadere all'interno, certo. Mentre il piede neutro è quello che naturalmente logora la scarpa in maniera centrale e uniforme. Quindi guardate anche le vostre scarpe. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri modi di dire sul piede per allenare proprio con utilizzando i piedi la testa e le abilità ad essa collegate. 349 238 6666, se volete mandarci un messaggio è tempo di andare a sentire i mercati, poi il meteo e poi di nuovo qui. Essere e benessere. Già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... Come si chiamano? Con le mie pinne non si può fare, vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per la... Come si dice? Strada. Egizio, romano, greco... State con noi, 800 24 00 24, parliamo di loro, dei nostri piedi, della loro forma, del loro appoggio, controllatevi le scarpe, dove si consumano e anche di che cosa facciamo con i nostri piedi, quale attività svolgiamo, siamo sedentari, siamo sportivi, ne parliamo oggi col dottor Leonardo Maradei e col dottor Gianluca Melegatti. Dottor Melegatti, con qualche attenzione si può evitare di ritrovarsi con i piedi dolenti o stressati? Certamente, mi permetta di salutare Leonardo, sì. Che è un caro amico. Ciao Gianluca. Salutatemi che mi piace. Dobbiamo curarci dei nostri piedi, dobbiamo curarci dei nostri piedi e soprattutto quando facciamo sport. Sembrano consigli banali, ma il fatto di tenere le unghie ben regolate, il fatto di mantenere la cute dei piedi molto ben idratata, sono presidi fondamentali per poter far sì che i piedi durino tanto. Quindi idratata vuol dire che bisogna dare, come usiamo la crema per il viso per le mani, dobbiamo dare la crema anche ai piedi. È fondamentale. Un consiglio che va per le donne e per gli uomini. Assolutamente per gli uomini, a maggior ragione. Quelli che fanno sport, a maggior ragione quelli che per esempio fanno lunghe distanze, fanno running, fanno jogging, o anche per quelli che giocano a calcetto. Mai trascurare la possibilità che i piedi si... che si creino delle fastidiose lesioni cutanee proprio per una cute troppo secca. E poi l'attenzione alla scarpa. Volevo precisare un punto importante sul discorso fatto prima. Tutte le scarpe si consumano nella parte posteriore esterna, anche in persone che hanno un appoggio normale. La usura della scarpa va valutata lungo tutta la suola, naturalmente, non solamente nella parte posteriore esterna. Dottor Maradei, il piede nel tempo si modifica. È un problema di anni, un problema di scarpe, un problema di appoggio. Che succede? I nostri piedi cambiano. Se pensiamo ai piedi dei bambini, che sembrano dei piccoli ferretti da stiro, così belli piattarelli, poi il piattismo passa, ma li confrontiamo con un piede di una persona adulta, ci rendiamo conto di quanto grande sia la trasformazione dei nostri piedi. Ahimè, purtroppo quello è l'invecchiamento dei nostri tessuti. Bisogna pensare che noi, che comunque una persona mediamente nel corso della vita fa 3 volte la circonferenza della Terra come quantità di strada percorsa, per cui il piede, che è un organo in movimento, ovviamente si consuma, e il consumo avviene sia a livello delle articolazioni, dando delle forme artrosiche, sia al rilasciamento dell'elasticità dei tessuti. La cosiddetta caduta dei metatarsi, che si ha dopo una certa età, è dovuta al fatto che la fascia plantare ha perso un po' di tonicità e quindi tende a rilassarsi. Che cosa si può fare, dottor Melegatti, per contrastare un po' questa caduta? Sì, non è che si possa fare molto, però ci sono dei presidi molto importanti. Mantenere la flessibilità della muscolatura della gamba e del piede, rinforzare il piede facendo anche esercizi molto semplici come raccogliere a piedi scalzi un asciugamano oppure un fazzoletto. Questo aiuta a mantenere una buona mobilità delle dita e una buona flessibilità. Fare ogni tanto degli esercizi di stretching anche per le dita, e poi controllare molto, non mi stancherò mai di dirlo, le scarpe che vengono utilizzate. Bisogna osservare le scarpe, osservarle e capire quando sono da cambiare, soprattutto per persone che fanno attività sportiva. Consigli tra poco anche per le persone che fanno attività sportiva, dottor Melegatti, le divideremo in base naturalmente all'attività, per chi corre, certo. Consigli per chi corre, per consigli per chi va a piedi, per chi gioca a tennis o a calcetto, ma anche per consigli per chi rimane in piedi ore e ore. Renata dalla provincia di Pavia e poi Marina da Milano. Renata, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Io volevo solo dire questo: io passo in piedi parecchie ore al giorno per lavoro, senza contare poi quelle che passo in casa. Ora, io ho problemi di schiena, sono in cura e quant'altro, mi è già stato fatto di tutto, però l'unica cosa che adesso mi sta succedendo spesso, anzi molto spesso, è che io avverto dei crampi al piede destro, dove ho questi problemi di lombosciatalgia, nervi attorcigliati intorno alle vertebre, quant'altro sia, però questi crampi che mi vengono non solo durante il giorno, ma anche durante la notte, cioè da saltare in piedi dal letto disperata, perché non so più cosa fare. Cioè, volevo sapere se è una cosa che può essere ricollegata a questo problema che io ho alla schiena. Sì. O se è una cosa dovuta alla stanchezza, dovuta al molto camminare. Io sul lavoro, per esempio, uso le scarpe da ginnastica, per essere precisa quelle di tela molto basse. Ecco, forse dovessi... anche la calzatura è probabile che non sia quella indicata. Dottor Maradei. Sì, sicuramente. Allora, sicuramente sono dei problemi che derivano dalla schiena. Un'irritazione dei rami nervosi può portare a questi dolori molto acuti, soprattutto notturni. Sicuramente la scarpa che usa la signora non va bene. Una scarpa senza tacco, assolutamente piatta, come le scarpe da ginnastica, da tennis in particolare, non va bene per stare in piedi tutto il giorno, perché la scarpa, perché il piede possa stare bene, ha bisogno almeno di un tacchetto di 1-2 centimetri. Quindi eliminare la scarpa completamente piatta. Che fa malissimo anche per la schiena. Esatto, e poi quali altre indicazioni? Può lavorare magari con lo stretching? Quando noi avvertiamo un crampo così violento al piede, dottor Melegati, che cosa possiamo fare? C'è una manovra al momento, magari non possiamo toglierci subito la scarpa, ma subito dopo, potendo mettersi i piedi nelle mani, che cosa possiamo fare? Bisogna afferrare le dita e tirarle verso l'alto in maniera costante, con una tensione, con una bella tensione, e rimanere per 10-15 secondi per cercare di allentare la muscolatura della plantare. Però insomma, io credo che la scarpa veramente sia importante. La scarpa deve essere una scarpa che sostiene il piede, che ne rispetta la fisiologia, e quindi è fondamentale attenzione alla scarpa anche in queste situazioni di stazione eretta mantenuta a lungo. Marina ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per l'opportunità e complimenti per la trasmissione che appena posto io seguo, veramente interessante. Io sono un'insegnante di educazione fisica e quindi vedo tantissimi piedi in crescita e noto però che i ragazzi hanno sempre più problemi. Questa cosa è abbastanza nota, nel senso che sappiamo che c'è una carenza di motricità in generale, no? Sì. Ragazzi che stanno più seduti e fanno una vita sedentaria. E quindi appunto, cioè io volevo, come dire, veramente ribadire che il movimento è fondamentale per la salute del piede. Tra l'altro volevo anche dire questo, cioè mi permetto, diciamo, rispetto all'ortopedia, spesso l'ortopedia italiana ha un po' questa così tendenza all'intervento chirurgico, che indubbiamente sicuramente è necessario, però io sto notando ad esempio che molti ragazzi col piede piatto vengono operati e sinceramente poi quello che mi sembra che manchi un po' è il recupero, cioè non basta comunque l'intervento chirurgico. Dottor Maradei, l'invito di Marina è chiaro, interventi chirurgici eccessivi e manca poi la riabilitazione, quando è necessario e quando invece... L'intervento chirurgico per il piede piatto si rende per lo più necessario nei bambini nella fase di crescita, quando a 9, 10, 11 anni, ma anche 8 anni, hanno un piede ancora molto piatto, soprattutto con un retropiede valgo, cioè con il calcagno che guarda verso l'esterno, allora l'intervento in quel caso è necessario, anche perché oggi come oggi questi interventi sono degli interventi proprio poco invasivi, che non richiedono neanche una grossa riabilitazione, nel senso che il bambino dopo una settimana riprende praticamente a fare tutto, è un tagliettino nella pelle di un centimetro e viene messa una vite che impedisce all'astragalo, che è l'osso che si trova sopra il calcagno, di scivolare sul calcagno, e questo non è possibile evitarlo con fisioterapia o con ginnastiche varie, perché è proprio una conformazione del piede. E negli ultimi anni questi interventi sono aumentati, ma perché i risultati sono ottimi. I bambini che non venivano operati 10-20 anni fa si trovano oggi con dei piedi disastrosi piatti, in cui l'ortopedico purtroppo non sa cosa fare. Essere e benessere. Perché reggono l'intero peso, perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi, perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare. Perché portano via, perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato, e chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta. Elogio ai piedi di Henry De Luca. E vi consiglio di andarlo a rileggere o ad ascoltare. In linea con noi abbiamo Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Per la trasmissione, buongiorno. Ha visto, l'ho messa dopo Henry De Luca, che insomma non è poi... Mi dica. No, certo, io devo intervenire per questo. Per me i piedi sono estremamente importanti perché io corro e faccio circa 100 km a settimana. Mm-hmm. E di tanto in tanto partecipo a qualche maratona e a qualche mezza maratona. Visto la mia età, che ormai sono per i 54 anni, volevo sapere se, al di là delle indicazioni che sono già state date, se c'è qualche indicazione per quanto riguarda la cura e l'attenzione a quelli che sono i tendini, soprattutto il tendine di Achille. Eccolo lì. Il tendinone. Allora, dottor Melegatti, noi volevamo proprio arrivare qui e Massimo ci serve la palla. Volevamo infatti dare consigli ai piedi degli sportivi. Partiamo quindi da Massimo, che ci chiede di occuparci, di dare consigli per il tendine d'Achille. Ma il tendine d'Achille intanto è una struttura che può venire interessata soprattutto da un sovraccarico durante l'attività di corsa. Sì. E quindi bisogna capire, intanto bisogna stare molto attenti ai primi segni di problemi al tendine d'Achille, non lasciar mai passare troppo tempo. Quali sono i segni? I primi segni possono essere un po' di dolore durante la corsa, un po' di dolenzia superiore al solito, palpandolo e premendo il tendine d'Achille tra le due dita, e un dolore giù in fondo all'inserzione del tendine d'Achille al calcagno, tutti segni che non vanno sottovalutati ma vanno valutati attentamente per cercare di capire perché è insorto questo problema al tendine d'Achille. In genere non viene mai per caso, viene o per un eccesso di allenamento o per una situazione biomeccanica che è cambiata, magari una retrazione muscolare, una lesione muscolare precedente, il cambiamento anatomico della forma del piede. Abbiamo sentito come Leonardo Maradei ha detto giustamente che il piede cambia con l'età, e quindi bisogna trovare il motivo per cui questo eventualmente il tendine si è infiammato, ma per mantenerlo in ordine bisogna naturalmente mantenere sempre una buona flessibilità di tutta la catena posteriore. E c'è un esercizio di stretching classico. Che ogni runner e che ogni sportivo conosce, quello della tensione della gamba tenuta estesa dietro di sé con le mani appoggiate al muro per 15-20 secondi, 5-6 volte. Lo stesso esercizio possiamo darlo a chi cammina? Assolutamente, soprattutto a persone che hanno predisposizione ad avere affaticamento, persone che hanno avuto magari problemi in passato, problemi muscolari ai polpacci oppure problemi circolatori. Naturalmente sono consigli validissimi anche a persone che camminano o che fanno altri tipi di sport come tennis, come calcio, come sci. Una domanda arriva da Lella da Milano, che ci scrive al 349-238-6666. Non è un controsenso l'abolizione delle scarpe piatte e positivo invece camminare a piedi nudi? Dottor Maradei, abbiamo tolto le scarpe piatte, la nostra ascoltatrice e i nostri ascoltatori non sono contenti. No, sì, in teoria è vero, però in pratica no, perché allora camminare a piedi scalzi, come ho detto prima, va bene sulla sabbia, va bene sull'erba, va bene su questi terreni che permettono comunque un adattamento della pianta del piede, non va bene sul pavimento, perché comunque è una superficie rigida. Non naturale. È il discorso che facevamo prima di perché i piedi, perché le persone che vivono ancora nelle foreste non civilizzate hanno meno dolore ai piedi, proprio per questo, perché camminano su terreni dolore diversi. Ai piedi che viene con le scarpe piatte, ma viene anche quando portiamo i tacchi alti. Ah, certo. Un giorno in cui dovevo andare a un party, ho chiesto alla mia amica Laura, esperta di look, di dispensarmi alcuni consigli. Queste sarebbero scarpe col tacco, dice lei alzando gli occhi al cielo. Tesoro, ma che disastro! Io intendo tacchi veri, tacchi di 12, 13, 14, 15 centimetri, non questa roba da pensionata che va a ballare al centro anziani del comune. Ma quanto sei cretina, mi inalbero. Al centro anziani ci andrai tu. Queste sono scarpe bellissime, con un tacco normale. Se mi metto 15 centimetri di tacco, io cado. Per non parlare del mal di piedi mostruoso che... Tratto da un libro che io vi voglio consigliare, un libro bellissimo, si intitola La versione di Barbie, scritto da Alessandra Faiella, che è in linea con noi. Alessandra, buongiorno. Insomma, questi tacchi non ce la si può fa'. Molte ascoltatrici non saranno d'accordo con me, io sono un anti-tacco 12, 13, 14, 15, come avete potuto sentire dalla deliziosa lettura che avete fatto. Io sono contro il tacco alto, perché questa tortura che le donne si autoinfliggono, secondo me, è proprio segnale del loro masochismo atavico. La donna è affetta da secoli da masochismo, classico masochismo femminile, che ha come una delle sue manifestazioni è quella, il tacco. vertiginoso che costringe il piede, come potranno confermare i medici lì presenti, a posizioni assurde, a dei dolori sconvolgenti, e basterebbe pensare che nessun uomo si sottoporrebbe ad una tortura del genere per piacere a una donna. Poi sul fatto di piacere agli uomini grazie al tacco 12 avrei molto da dire, non sono d'accordo nemmeno su quello. Alessandra, io penso che il dottor Maradei e il dottor Melegatti ti inviteranno al loro prossimo convegno, perché gli ortopedici sono assolutamente nemici dei tacchi, che io nemici ti devo dire, perché sono persone sane, sono medici che curano la nostra salute, e le donne dovrebbero curare oltre che i piedi prima il cervello. Senti, a me piacciono ti posso dire? Mi piacciono molto. No, ma perché tu sei anche tu malata di questo incancrenimento e questo inzoccolimento globale del genere femminile. Ci siamo inzoccolite, non sappiamo il perché, e crediamo di essere sexy perché abbiamo il tacco alto. Ma una donna è sexy per mille altri motivi, perché siamo brillanti, perché siamo simpatiche. Sei troppo forte, dolci, ma devo chiudere. Ma grazie ad Alessandra Faiella, alla versione di Barbie, al dottor Maradei, al dottor Melegatti, che sono rimasti senza parole dopo questo inno al no tacco. Io vi grazie a voi dottori e vi aspetto come sempre domani alle 11. Essere e benessere.